Il diario di Q. Münster, 15 settembre 1550. La Jude Feldeltor è la porta da cui entrano ed escono le merci. I contadini entrano con il raccolto, i mercanti escono con i loro manufatti. Carri carichi di tessuti dicono che l'attività più proficua di Münster ha ripreso con nuova lena, dimenticando Knipper Dolling, vecchio capo della Gilda dei Tessitori. Uomini e donne popolano le strade, mettendo in scena la vita quotidiana. Il convento di Huberwasser è diventato un ospedale. Forse qualche suora sarà rimasta. Certamente non Tilbeck e Hildfeld, i due borgomastri luterani che si asserragliarono lì dentro nei giorni della rivolta anabattista. Nella grande piazza, al centro della città, la cattedrale e il municipio sono ancora lì a fronteggiarsi. Il Duomo è stato completamente restaurato, adorno di statue e guglie che innalzano la chiesa romana. Davanti al palazzo comunale, drappelli di guardie, la cui presenza si avverte ovunque. Poi la piazza del mercato, i banchi sono ordinati in fila sui lati, mostrano i loro prodotti, voci scandiscono prezzi, trattative. San Lamberto. Tre gabbie pendono dal campanile, vuote. Nessuno le guarda. Bokelson, Knipper Dolling, Krechting. Solo io sono rimasto con il naso all'insù per non so quanto tempo, mentre tutti mi passavano accanto. Chi si avvicinava ai banchi, chi entrava in chiesa. Nessuno le guarda. Il passato è sopra le loro teste e se provano ad alzarle, le gabbie sono lì a ricordarglielo. Münster è il monito che incombe sulla cristianità. Tutto ritorna come prima. Del male non resta traccia se non nel simbolo eterno della punizione più terribile. Prima di esporli nelle gabbie, i corpi di Bokelson, il re Davide, di Knipper Dolling, ministro di giustizia del regno di Sion, e di Krechting, consigliere del re, furono dilaniati da tenaglie roventi e pugnalati dal boia. Dentro la chiesa non riecheggiano più i sermoni incendiari di Bernard Rothmann, predicatore della rivolta. Quei sermoni che cominciavano sempre con l'aneddoto della statua di Cristo e del bambino. Inutile chiedere in giro cosa sia stato di lui, giacché il corpo non fu mai ritrovato tra le cataste di cadaveri. Quasi vorrei che fosse lui, ormai vecchio, il Tiziano che percorre l'Italia. Ma dovrebbe essere rinsavito dalla follia in cui contribuì a sprofondarlo. Lunghe discussioni in quelle navate sugli usi dei patriarchi della Bibbia, sulla poligamia, sull'inappellabile legge mosaica, alimentando il fuoco del desiderio. Bernard Rothmann, guida spirituale dei Münsteriti, pastore degli insorti, primo nemico del vescovo von Waldeck, poi giù, a precipizio, nell'abisso di disperazione apocalisse da cui non si fa ritorno. No, Rothmann no, vivo o morto che sia oggi, non potrebbe mai ricominciare da capo. Se ci fosse stato un solo giusto in tutta la città, Sodoma si sarebbe salvata. Ma quell'unico giusto se n'era andato. Solo così ho potuto fare quello che ho fatto, vivendo spalla a spalla con il teologo di corte, giorno dopo giorno, sul sentiero che portava alla rovina. E ancora oggi credo di avere soltanto accelerato il tempo dell'inevitabile. L'unico giusto se n'era andato, scampato all'incubo e alla mattanza. Dalla scalinata di San Lamberto ho guardato la piazza, i banchi ammucchiati in barricate, le torce, le armi, gli ordini da un capo all'altro del mercato. Le speranze e le illusioni degli anabattisti, insorte in questa piazza, sono state Rothmann, Mattis e Bokelson a tradirle. Io no. Io ho tradito soltanto l'unico giusto. È su questa piazza che dovevo tornare, a saldare i conti con quello che sono stato, non nelle aule di Wittenberg e nemmeno nei palazzi di Viterbo. Thomas Münzer, Reginald Pohl, l'ingenuità come la follia dei profeti si tradisce da sola, non il senso di possibilità di quei giorni e di quei gesti, non la determinazione di chi ce lo infuse. Dovrebbe essere lui a saldare il conto, non la lama di carafa. Ma dovrebbe essere ancora vivo, scampato a 15 anni di sconfitta, sopravvissuto alle rivolte olandesi. Dovrebbe essere stato accolto nella comunità dei Loisti di Anversa. Dovrebbe essere sfuggito alla vendetta di Fuggar, portando con sé il frutto del raggiro. Dovrebbe essere arrivato a Venezia, la patria dei fuggitivi, diventando il tenutario di un bordello di lusso e al tempo stesso, con il nome di Tiziano, girare l'Italia per diffondere l'anabattismo. Sì, e il turco dovrebbe convertirsi. Posso tornare a Roma ora, a incontrare il destino che attende i servi ormai logori e invecchiati. L'epilogo banale di una vita incastrata tra eventi troppo grandi per tener conto delle inquiete emozioni di una spia al tramonto. Di fronte a tutto questo e a queste gabbie, posso dire di non aver vissuto, osato mai se non nei giorni del tradimento infame e perfetto della più grande impresa che il coraggio e la follia degli uomini potessero immaginare. La lucida ragione di una spia e la fedeltà appassionata di un luogotenente verso un capitano ammirato dal primo giorno. Quei giorni traboccano ricordi, gli unici, carichi di discordanti sensazioni, come la vita, appunto, che ho tenuto lontani, pavido esecutore di grandiose trame. Il tempo per sciogliere l'enigma va esaurendosi, ed è giusto così. Avrei dovuto ucciderti allora. Solo così avrei espresso il sommo rispetto per le tue gesta. Solo così avrei impedito a me stesso, dopo 15 anni, quasi alla fine, di desiderare di incontrare di nuovo il fuoco dei tuoi occhi e il freddo della tua spada, capitano Gert dal Pozzo.